Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 17ª puntata. Pochi giorni prima di tornare a Delhi, mi recai per l'ultima volta all'Hemington Road a salutare Mrs. Price. Qualche giorno prima qualcuno aveva bussato alla mia porta di buon mattino. Era di nuovo settembre, la breve estate inglese era già finita. La mattina faceva molto freddo nella casa sgangherata di Fulham, dove affittavo una stanza. Attraverso vari strati di coperte udii dei colpi alla porta. Li ignorai, mi girai dall'altra parte e cercai di tenere i piedi lontano dai bordi gelidi del letto. La stufetta a gas era spenta, funzionava con monete da 5 penny e la mia riserva era finita da diverse ore. I colpi alla porta non cessavano e dovetti alzarmi. La stanza sembrava un frigorifero. Era assurdamente fredda. Il vetro della finestra era coperto di brina come lo scompartimento del ghiaccio. Mi buttai il cappotto sulle spalle e saltellai fino alla porta. Era Carrie, la ragazza americana che viveva nella stanza attigua. Era una studentessa d'arte di Seattle che passava 6 mesi a Londra prima di andare a Roma e a Parigi. Nel breve periodo trascorso in quella casa eravamo diventati buoni amici. Carrie indossava una tuta da ginnastica blu scuro e tra un colpo e l'altro alla mia porta faceva jogging avanti e indietro sul pianerottolo, battendosi sulle cosce i pugni chiusi. Era 20 centimetri più alta di me e decisamente più robusta, con una faccia larga e squadrata. «Salve!» disse. «C'è una chiamata per te al piano di sotto, c'è una signora». Vedendomi col cappotto cominciò a sghignazzare. «Gesù!» disse. «Sei tutto infreddolito, povero piccolo!» Smise di fare jogging solo il tempo necessario per abbracciarmi. «Non dovresti vivere in un paese primitivo come questo. Tu hai bisogno di un posto con il riscaldamento centrale e l'acqua calda, come gli Stati Uniti». «Hai ragione», risposi. E la seguii mentre volteggiava giù per le scale verso la cucina, dove era sistemato il telefono a scatti della pensione. Mi insegnò quella stupenda parola, volteggiare. E ancora oggi, quando penso a lei, la vedo volteggiare sulla riva del mare da qualche parte nei dintorni di Seattle. Era Ayla. Mi chiamava per la prima volta da quando lei e Nick erano tornati dalla luna di miele circa 3 mesi addietro. «Perché ci hai messo tanto?» mi disse. Cominciai a dare spiegazioni, ma le tagliò corto. «Senti», addolcì la voce, «ieri mi sono svegliata e mi sono resa conto che te ne tornerai a casa nel giro di una settimana o giù di lì». «Infatti», dissi, «hai già fatto le valigie?» disse Ayla. «Hai sistemato tutto? Devi avere migliaia di cose da fare. Posso esserti d'aiuto?» Colpito dal timbro affannato della sua voce, dissi: «Sono mesi che sai che partirò la prossima settimana. Di che cosa ti stupisci?» «È vero», ammise. «Immagino di averlo saputo. Tuttavia, non avevo pensato a quello che deve significare per te. Me ne sono ricordata ieri svegliandomi e allora ho pensato a tutte le cose che avrei da fare io se fossi io che torno a casa, e mi ha preso un tale panico che ho deciso di telefonarti immediatamente. Ieri però non ti ho trovato e così ho pensato di chiamarti stamattina presto». Non riuscivo a trattenere il riso. Sapevo che mi stava dicendo la pura e semplice verità. Infatti era vero che nei rari momenti in cui le nubi del suo egocentrismo si diradavano, Ayla era capace di cogliere con tale straordinaria acutezza le necessità pratiche della vita degli altri, che diventavano temporaneamente pressanti come se fossero sue. Non avevo difficoltà a credere che avesse rovinato le uova di Nick quella mattina e che avesse perfino messo lo zucchero nel suo muesli per l'ansia della mia partenza. «Hai pagato tutti i conti del tuo libraio?» mi chiese. «E hai restituito le carte di credito?» Risi. Sapeva benissimo che non avevo carte di credito. «Che cosa ne diresti di spedire il bagaglio via mare?» disse. Hai già fatto tutto? Ma lascia che me ne occupi io, conosco perfettamente la procedura. Non ho molti bagagli. Ah, dunque, non c'è niente che io possa fare. Allora la immaginai mentre si grattava il mento depressa, con la cornetta del telefono in mano, ed un tratto la mia decisione di farla soffrire un po', escludendola dalla mia partenza, il mio ultimo gesto privato, andò in frantumi, come tutti i miei piani per vendicarmi di lei. Sì, una cosa c'era in cui mi poteva essere d'aiuto. Volevo salutare Mrs. Price e forse poteva combinare lei, magari venire con me. Rispose con un sospiro di sollievo e disse che naturalmente le avrebbe fatto piacere. Non poteva immaginare niente di meglio. Avrebbe parlato con Mrs. Price e mi avrebbe richiamato. Così stabilimmo che il mio ultimo sabato in Inghilterra, 3 giorni prima di salire sull'aereo della Thai Airways per Delhi, Ayla e io saremmo andati a prendere il tè da Mrs. Price. E Nick? Le chiesi quando mi richiamò per confermare. Non sarebbe venuto con noi. Ci aveva già pensato. Nick sarebbe venuto a Leamington Road più tardi. Ci saremmo trovati là. Rise. Voleva avermi tutto per sé per un po' prima che arrivasse il suo marittino. Dove possiamo incontrarci? Chiesi. E mentre lei ci pensava, aggiunsi prontamente: che ne diresti di Trafalgar Square sui gradini di St. Martin in the Fields? Scoppiò a ridere. Chiunque potrebbe pensare che tu stia scrivendo la sceneggiatura di un brutto film, ma poi aggiunse: d'accordo, ci vediamo là. Arrivai in St. Martin in the Fields in anticipo. Volevo dare un'ultima occhiata a Trafalgar Square, un'occhiata lunga abbastanza da rimanere viva per anni nella mia memoria. Trovai un posticino pulito sui gradini, vicino a una colonna, dove i turisti non mi avrebbero calpestato. Non mi ero ancora seduto che le nuvole aprirono uno spiraglio nel cielo, quasi obbedissero a un mio ordine, e una grandiosa pioggia di sole si riversò sulla piazza. In quell'atmosfera di giubilo, dall'organo di St. Martin in the Fields sgorgarono all'improvviso le prime note di una toccata di Bach, e in quell'istante vidi Ayla farsi strada in mezzo alla folla che stazionava davanti all'ingresso della National Gallery. Indossava una lunga giacca di folta pelliccia con i bordi argentati. Il profilo della testa e la macchia scura del viso si stagliavano sullo sfondo lucente del bavero. Camminava adagio, con lo sguardo basso, preoccupata, indifferente alla gente che si fermava ad ammirarla. Mi nascosi dietro la colonna. Non volevo che mi vedesse. Desideravo osservarla il più a lungo possibile mentre camminava ignara. Le venne in mente qualcosa, infilò una mano in tasca, tirò fuori un paio di occhiali e li indossò. Poi attraversò la strada lentamente, con le mani sprofondate nelle tasche della giacca. Alzò gli occhi verso la chiesa, mi individuò e sorrise. Era di una bellezza così improbabile, così assurda, che mi misi a ridere. Continuando a ridere, scesi la scalinata e, trattenendola alla distanza di un braccio per poterla osservare comodamente, le tolsi gli occhiali. Cercò di agguantarli, ma era troppo tardi. Avevo fatto in tempo a vedere i suoi occhi, rossi e gonfi, come se avesse pianto tutta la notte. «Cos'è successo?» urlai. «Qual è il motivo, Ayla?» «Non è successo niente», disse bruscamente. «Andiamo, siamo già in ritardo». Impiegammo 3 quarti d'ora per arrivare a Leamington Road. Venne ad aprirci Mrs. Price. Sembrava persino più piccola e fragile di quando l'avevo vista l'ultima volta. Mi accompagnò in salotto mentre Ayla andava in cucina a preparare il tè. C'erano dei tramezzini che ci aspettavano coperti da un panno umido e una torta. L'aveva fatta lei. Era una Cornish cake farcita, la torta preferita di suo marito. mentre ne tagliava una fetta, mi chiese notizie di Maya Debi e del Shaheb. Non avevo molto da dirle, salvo che Maya Debi aveva deciso di trasferirsi nella casa di famiglia a Rai Bajar, da sola, perché il Shaheb non aveva alcuna intenzione di rinunciare ai suoi club e di vivere fuori Calcutta. Mi prestava ascolto, ma si vedeva che era molto stanca. Intuivo che si stava chiedendo come avrebbe fatto a intrattenerci per un'altra mezz'ora. Se ne accorse anche Ayla quando entrò portando il tè e, appena finito di berne una tazza, mi chiese con molto tatto se volevo fare un ultimo giro per la casa e il giardino. Anhui e Mrs. Price, sollevata, ci fece segno di andare. Quando fummo nel corridoio, Ayla mi chiese se volevo uscire un momento in giardino, ma io sapevo dove volevo andare. «No, andiamo nello scantinato», dissi. Attraversò il corridoio senza dire una parola, aprì la porta dello scantinato e accese la luce. I lettini da campo erano ancora aperti, come li avevamo lasciati a Natale. Avevamo dimenticato di ripiegarli. Adesso erano coperti da un sottile strato di polvere. Ayla sedette a gambe incrociate su una delle brandine e mi invitò a sedermi vicino a lei. «Eccoci qui», disse. «Eccoci di nuovo a Rai Bajar». Sedetti sull'orlo rigido della brandina e mi guardai intorno. I vecchi bauli e le valigie, i mucchi di giornali, gli attrezzi da giardino che arrugginivano in un angolo. A poco, mentre mi guardavo intorno sotto la luce violenta, diretta della lampadina nuda, quegli oggetti sparpagliati persero i loro contorni. Una delle loro dimensioni sembrava dissolta, si appiattivano contro le pareti. I bauli sembravano appesi alle pareti. Gli angoli vuoti si riempirono di figure del passato, di fantasmi che mi erano stati lasciati in eredità dal tempo. Il fantasma di Tridib, a 9 anni, seduto su una brandina, esattamente come me, il suo piccolo volto teso per sentire le bombe. In un angolo più lontano, con la sua cassetta dei medicinali, il fantasma di Snipe, preoccupato per i denti. Il fantasma di Ayla, a 8 anni, seduta con me sotto l'immenso tavolo a Rai Bajar. Erano tutti intorno a me, finalmente riuniti. E non erano affatto dei fantasmi. L'essenza dei fantasmi consiste semplicemente nell'assenza di tempo e di distanza. Un fantasma altro non è che una presenza rinnovata nel tempo. Così, quando Ayla si volta verso di me e nasconde il viso nella mia spalla, e l'altra Ayla, di 8 anni, e io, il mio altro io, tutti e due seduti sotto quella tavola a Rai Bajar. Piange disperata per qualche ragione che non riesco a capire. Sentiamo che la porta della nostra stanza sotterranea segreta si sta aprendo e io la prego di smettere di piangere, altrimenti ci troveranno, la supplico, ma lei non riesce a trattenere i singhiozzi. Poi la porta si chiude misteriosamente e lei, terrorizzata, smette. E ci teniamo stretti perché sappiamo che c'è qualcuno nella stanza oltre a noi e non sappiamo chi o che cosa sia. Invece eccolo, è soltanto Tridib che ci guarda sorridendo e ci chiede che cosa stiamo combinando in mezzo a tutta quella polvere. E io comincio a spiegargli che giochiamo alle case, che non siamo a Rai Bajar, ma a Londra, nella casa di Mrs. Price, in Leamington Road. Gli faccio strada attraverso il giardino, oltre il ciliegio. Ha qualche difficoltà ad orientarsi, ma una volta che l'ho guidato all'interno, attraverso la porta principale, e gli ho mostrato il salotto, sa esattamente dove andare. Conosce la casa molto meglio di me, ci ha vissuto da ragazzo. Quando entriamo in salotto, Ayla ricomincia a piangere. «Che cosa succede?» le chiede Tridib, ma lei non risponde. Si passa il dorso delle mani sugli occhi, singhiozzando. Allora Tridib ci circonda le spalle con le braccia, ci porta fuori e ci fa sedere a gambe incrociate sull'erba sotto l'albero di ciliegio. Va tutto bene adesso, Ayla, le dice. Raccontami perché piangi. Ma quelle parole provocano un nuovo scoppio di pianto di Ayla e io, perdendo la pazienza, dico a Tridib che tutto per colpa di una stupida storia inventata da lei sulla sua bambola, Magda e Nick Price. Gli racconto la storia come me l'ha raccontata Ayla e dal momento che Ayla continua a piangere, alla fine mi volto verso di lei e le urlo di smetterla, di non comportarsi come una sciocca bambina capricciosa. Era solo una storia di una piccola stupida bambola ed eccola lì a cavarsi gli occhi come se l'avesse vissuta davvero. Tridib ride, mi prende per il collo e mi dice di non sgridarla. Tutti vivono dentro una storia, dice. La nonna, mio padre, suo padre, Lenin, Einstein e un mucchio di altri nomi che non ho mai sentito. Tutti hanno vissuto dentro le storie, perché le storie sono l'unico luogo in cui si può vivere. Si tratta solo di sceglierne una. Ciò però non consola Ayla, che piange sempre di più. Tridib le arruffa i capelli chiedendosi che cosa fare e tutt'a un tratto dice: forza, diamo giù al rifugio. Ascolteremo una storia tutti insieme, una bella storia, la più bella storia del mondo. È riuscito a sollecitare la curiosità di Ayla, che finalmente smette di piangere. Così ci alziamo e lo seguiamo fuori dalla porta d'ingresso. Lungo la strada ci spiega che oggi è un giorno davvero speciale. È il 25 settembre 1940, il suo nono compleanno. E proprio per questo motivo ci verrà raccontata una storia. È il regalo di Snipe per il suo compleanno. Gliel'ha promessa come ricompensa per tutte le corse che ha fatto per lui alla farmacia di West End Lane. Ma è un giorno speciale anche per un altro motivo. La settimana prossima Tridib, suo padre e sua madre faranno ritorno a Calcutta. Ormai suo padre sta bene, si è rimesso completamente. Tridib non sopporta l'idea di lasciare Londra, ma è vero, partono la prossima settimana, tornano a casa. Ma almeno c'è la storia di Snipe da ascoltare stasera. Snipe gli ha assicurato che è una storia lunga e bella, una vera storia medievale inglese. La conosce molto bene perché l'ha insegnata ai suoi studenti per anni. Tridib pensa di essersela guadagnata. Quella di oggi non è stata una bella giornata per lui. La mattina presto sua madre gli ha detto di non uscire di casa per nessuna ragione e non gli ha risposto quando lui ha chiesto spiegazioni. «Fa quel che ti dico», ha ordinato. «Ma è assurdo. Come può pensare che se ne stia in casa tutto il giorno senza far nulla? E per di più con tutte le cose che succedono fuori». Subito dopo la prima colazione, mentre sua madre aiutava il padre a radersi, era scivolato fuori dalla porta e dal cancelletto. Poi, svoltando a sinistra, era corso fino al campo da cricket. C'è una postazione d'artiglieria nel punto in cui era solito collocarsi il giocatore con il numero 10 quando il lancio veniva dalla parte del padiglione. Uno degli uomini che si occupano del grosso cannone è stato in India con l'esercito, conosce alcune parole tamil, ma non ne capisce il significato e non sa spiegare a Tridib come le ha imparate. Talvolta permette a Tridib di stare a guardare mentre lui e gli altri puliscono il cannone, un'enorme cosa d'acciaio grigio, grossa come un albero. Proprio due notti prima, una bomba ha aperto nel campo da cricket un immenso cratere, largo almeno 40 metri a circa 50 metri dalla postazione, nella posizione del giocatore numero 7, se il battitore si trova di fronte al padiglione. Si era infilato sotto lo steccato e aveva attraversato il campo correndo fino al cratere. Durante la notte è cambiato, si è riempito d'acqua perché ha piovuto. I cumuli di terra sollevati dalle esplosioni si sono trasformati in fango. Era strisciato carponi fino all'orlo del cratere. Si era spaventato e c'era quasi caduto dentro. Poi era scoppiato a ridere. Dallo specchio d'acqua lo fissava la sua stessa faccia. Poi aveva sentito di nuovo la voce di sua madre che correva per la strada e lo chiamava. Le aveva risposto senza pensarci e se n'era subito pentito. perché gli si era precipitata addosso, lo aveva preso per un orecchio e lo aveva trascinato in casa. Dopo aver chiuso la porta, si era girata verso di lui e lo aveva schiaffeggiato con forza. Non l'aveva mai fatto prima. Lui era talmente stupito che non aveva neppure pianto. Mrs. Price aveva sentito il ceffone ed era arrivata dalla cucina. Povero Tridib, aveva detto, vedendo che si massaggiava la guancia. Lo aveva portato in cucina, mormorandogli all'orecchio: non voleva, solo che oggi è molto preoccupata. Preoccupata per il viaggio che gli aspettava, gli aveva detto Mrs. Price, ma ancora di più per le scatole di caramelle. Scatole di caramelle, aveva chiesto lui. Il giorno prima Snipe aveva mostrato loro un comunicato dell'Air Raid Precautions nel quale si diceva: si ritiene che aerei nemici abbiano effettuato lanci di scatole di caramelle. Hanno la forma di una borsetta e su alcune ci sono dei disegni tartan colorati con un indovinello sul coperchio firmato Lyons Assorted Toffee and Scotch e il marchio J. Lyons & Co. Non ci avrebbero badato granché se non si fosse trattato di un comunicato dell'ARP, ma persino Snipe, di solito tutto indifferente alle voci, non se l'era sentita di sottovalutare un comunicato dell'ARP. Anzi, aveva osservato che c'era una logica nella scelta di demoralizzare la popolazione minacciando i bambini. Quanto a Maya Debbie, si era convinta che Tridib avrebbe trovato una di quelle scatole. Era praticamente l'unico bambino rimasto in Lymington Road. Tutti gli altri erano stati allontanati da Londra. Temeva che nei suoi vagabondaggi quotidiani sarebbe senz'altro incappato in una di quelle scatole. Ecco perché non aveva neppure osato avvertirlo. Era sicura che se fosse stato informato sarebbe uscito a cercarne una. Così era rimasto chiuso in casa mentre Snipe era andato a lavorare e suo padre al Guy's Hospital dallo specialista. Poi anche Mrs. Price era uscita alla ricerca di qualcosa di speciale per la cena. Era rientrata esausta un'ora più tardi, dopo essere riuscita a comprare una forma di pane, una dozzina di uova e mezzo chilo di fegato d'agnello. Aveva buttato la borsa sul tavolo di cucina e si era seduta a guardarla. «Che cosa diavolo prepariamo per la cena del tuo compleanno?» si era chiesta. «Questo non può bastare». «Non me ne importa», aveva risposto Tridib. «Snipe mi farà un bel regalo». E poi aveva raccontato a Mrs. Price, che non ne sapeva niente, della storia che Snipe gli aveva promesso come regalo di compleanno. Ma naturalmente ebbe una cena di compleanno e anche altri doni. Mrs. Price guardò nella dispensa e trovò una serie di avanzi con cui riuscì a mettere insieme un pasto quasi abbondante. Niente foglie di cavolo bollite oggi, caro, nonché una Cornish cake farcita con invisibili candele blackout, disse Snipe. Ma non poté indugiare perché l'allarme suonò mentre erano ancora seduti a tavola. Compresero che sarebbe stata una cattiva notte appena sentirono i primi aeroplani. Snipe, che teneva May tra le braccia, li condusse subito nello scantinato, dove rimasero seduti sui loro letti, scrutando il soffitto alla luce della lampada a olio e chiedendosi quanto sarebbe durata l'incursione. Poco lontano ci fu un'esplosione violentissima che fece tremare il pavimento dello scantinato, mentre il supporto della lampada a olio vacillava pericolosamente. May si mise a piangere e Tridib, proprio quando cominciava a chiedersi per quanto tempo avrebbe resistito senza mettersi a piangere anche lui, ricordandosi della promessa di Snipe, Per favore, Snipe, la storia l'hai promesso. E la storia la vedo in bocca ai fantasmi che mi circondano nello scantinato. Snipe che la racconta a Tridib, Tridib che la racconta a me e a Ayla nella stanza sotterranea a Rai Bajar. Vedo me stesso 3 anni più tardi, quando accompagno May, la giovane May, in visita a Rai Bajar il giorno prima della sua partenza per Dhaka con mia nonna e Tridib. Mi vedo mentre la guido nella stanza sotterranea della vecchia casa, mostrandole la tavola sotto la quale io e Ayla eravamo seduti la prima volta che mi aveva parlato di Nick. Le racconto come aveva pianto Ayla dopo avermi raccontato la storia di Magda, e May mi parla di Nick, e poi io le racconto di quella volta in cui Tridib era entrato nella stanza mentre Ayla piangeva sulla mia spalla, e le racconto che Tridib mi aveva chiesto cosa stesse succedendo a Ayla e io glielo avevo spiegato. Così, per placare le lacrime di Ayla, lui ci aveva trascinati nella casa di Lymington Road, giù nello scantinato, per raccontarci la storia che una volta Snipe aveva raccontato a lui. Quale storia? Aveva detto May. Cercavo di ricordarmela, cercavo con tutte le mie forze, ma per qualche ragione non ci riuscivo. Più tardi, quello stesso giorno, a casa di Tridib a Ballyganj Place, dopo il nostro rientro a Calcutta, quando Tridib mi chiese che cosa avesse mostrato a May di Rai Bajar, dissi: l'ho portata nella stanza sotterranea, ti ricordi, dove ti trovai seduto accanto a Ayla che piangeva. E per farla smettere ci narrasti una storia, ricordi? Che storia era? Chiese May. Voglio conoscerla, raccontamela. Tridib si sedette su una stuoia a gambe incrociate. Era una storia bellissima e triste. Mentre Snipe la raccontava, scordai del tutto l'incursione aerea. In che epoca si svolge? In quale paese? Chiesi io. Questo è il bello, disse Tridib. Si svolge ovunque, dove vuoi tu. È una storia antica, la più bella d'Europa, diceva Snipe, e veniva raccontata quando l'Europa era un posto migliore, un posto senza nazioni e confini. Una storia tedesca in Germania, nordica nel nord, francese in Francia, gallese in Galles, Cornish in Cornovaglia, la storia di un eroe di nome Tristano, una storia assai triste, di un uomo che non apparteneva a nessun paese e che si innamorò di una donna venuta dall'altra parte del mare. Ciò accadde il giorno prima che partissero per Dhaka. Fu l'ultima storia che mi raccontò Tridib. Sentivo di nuovo la sua voce in quello scantinato, mentre Ayla piangeva seduta accanto a me sulla brandina. Piangeva disperata. Non l'avevo mai vista piangere così. Tutto il suo corpo era scosso da singhiozzi. A tratti sembrava che stesse per vomitare nel fazzoletto. «Mi dispiace», disse infine. «Non so cosa mi ha preso». Aspettai in silenzio. «È per via di Nick», disse lei. «D'accordo», dissi. «Raccontami. Che cosa ha fatto? Si è dimenticato di comprarti le rose o ha rovesciato il tè del mattino?» «Bastardo», disse tirandosi indietro. «Non ti permettere di parlarmi in questo modo». «Dai, lascia perdere», dissi io. «Puoi anche dirmelo adesso. Che cosa è successo? Sei tornata a casa in pieno giorno e lo hai trovato a letto con un'altra donna?» Mi diede un'occhiata stupita e distolse lo sguardo fissandosi le unghie. «Avrei mai potuto immaginare», disse, «che io, Ayla Datta Chowdhury, donna libera e spirito libero, avrei potuto vivere in quello stato di squallore in cui gli accidenti della vita possono essere previsti come gli episodi di un brutto serial televisivo». «Credo di no. Comunque, hai indovinato, sì, è così. L'hai già visto in televisione più o meno negli stessi termini. È più o meno quello che è successo». Gli aveva telefonato a casa un pomeriggio, subito dopo il ritorno dalla luna di miele in Africa. Di solito stava in casa, o almeno così diceva, visto che non aveva ancora un lavoro. Il telefono era squillato a lungo, poi, quando stava per riabbassare, aveva risposto una voce femminile affannata, come se la stessero spassando. La voce aveva detto «Hallo» con accento francese. Ayla era così sbalordita che aveva detto «Posso parlare con Nick Price?» come se stesse chiedendo un appuntamento alla segretaria del direttore della sua banca. La voce aveva ridacchiato «Chi parla, per favore?» «Sua moglie», aveva risposto Ayla sbattendo giù il telefono. Scoppiai a ridere mio malgrado. «Povera piccola Ayla, finalmente hai quel che ti meriti per i tuoi peccati». «Vorrei che fosse così», disse scuotendo stancamente la testa. «Vorrei poter dire a me stessa, va bene, anch'io ero solita fare quel genere di cose, non ha importanza, ma non le ho mai fatte, sai? Tu non l'hai mai capito. Ti sei sempre lasciato ingannare dal mio modo di esprimermi quando eravamo al college, ma parlavo così soltanto per scandalizzarti e perché in un certo senso sembrava che tu te l'aspettassi». Mi vergognavo. Abbassai gli occhi e dissi: «Ne hai parlato con lui?» «Sì, era lì ad aspettarmi quando sono tornata a casa. Molto calmo, molto freddo. Naturalmente ci aveva pensato sopra. Penso che desiderassi che io lo scoprissi in un certo senso. Forse aveva addirittura immaginato che fossi io a chiamare e aveva chiesto a quella donna di rispondere. Voleva imporsi, farmi sapere che non dovevo dare nulla per scontato perché viviamo in un appartamento comprato da mio padre o perché io ho un lavoro e lui no». Si girò verso di me. C'era una luce isterica nei suoi occhi e la bocca si torceva in un sorriso. «Mi ha detto», continuò, «che la donna che aveva risposto al telefono era della Martinica. L'aveva incontrata in un pub e la frequentava da circa un anno, molto prima che ci sposassimo. C'è anche una donna indonesiana in circolazione. E poi ci sono io, naturalmente. Perché lo fa?» Cominciò a ridere, stringendo i denti, mentre le lacrime le scorrevano di nuovo lungo le guance. «È esattamente quello che gli ho chiesto io. Dice che gli piace un po' di varietà e il suo modo di viaggiare». Non trovavo niente da dire, niente che potesse consolarla per aver scoperto che lo squallore dei piccoli snobismi era parte integrante di quel mondo libero che aveva cercato di costruire per se stessa. «Devi lasciarlo, Ayla». «Non posso. Lo capisci che non posso?» «Perché?» Si mise a ridere, quella sua risata familiare, intelligente, e io mi ritrovai a ridere con lei. «Ma non capisci? Non lo lascerei neppure se portasse a casa un intero dannato bordello di Bangkok. Lui ne è perfettamente consapevole. Sa che lo amo così tanto che non potrei lasciarlo per nessuna ragione». Tuttavia, scoprii quasi subito che aveva trovato un modo per punirlo. Mezz'ora più tardi, quando arrivò Nick ed entrò in salotto, Ayla ci annunciò ridendo che Nick aveva avuto un'altra delle sue idee. «Sta cercando di convincere mio padre a comprargli una quota in una società di magazzinaggio». Gli lanciò una lunga occhiata e il suo viso si indurì in un'espressione che non le avevo mai visto prima. Guardandolo, pensai a come doveva apparirgli il futuro: una fragile dipendenza punteggiata di piccoli, disperanti atti di ribellione. Mi venne voglia di alzarmi e di fargli forza, di abbracciarlo e offrirgli la mia spalla, ma naturalmente non lo feci. Lui non sapeva quale ruolo aveva giocato nella mia vita, stando al mio fianco nello specchio durante la mia infanzia. Sapevo che non avrebbe capito. Ricordavo che May, nella stanza sotterranea a Rai Bajar, aveva detto: «Lui è diverso, non è come noi». Era accaduto il giorno prima della loro partenza per Dhaka.